Portami a sentire le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento. Portami dovunque, basta che ci sia posto per un sorriso e qualche vecchio rimpianto. Dove vuoi, non dove sai, dove esisti e non ci sei. Portami con te, portami con te, dove tutto si trasforma, dove il mondo non mi tocca. E portami con te, portami con te, dove è leggero il mio bagaglio, dove mi ami anche se sbaglio, dove vola e si ribella ogni rondine al guinzaglio. E portami al sicuro ma senza parlare, e lascia che lo faccia il tuo modo di fare. Portami di corsa in un ponte lì in alto, che unisce il tuo dolore al tuo solito incanto. E portami, ti prego, dove preferisci, dove se metti piede in un attimo esisti. Perché non c'è risposta alle cose passate, tu portami ad amare le cose mai amate. E dove vuoi, non dove sai, dove esisti e non ci sei. Tu portami con te, portami con te, dove tutto si trasforma, dove il mondo non mi tocca. E portami con te, portami con te, dove è leggero il mio bagaglio, dove mi ami anche se sbaglio, dove vola e si ribella attentamente, dove basta un minuto intenso per vivere sempre, dove piove ma tu esci per bagnare la mente, perché se la vita è nostra non ci ostacola niente, dove al posto dei piedi hai due pagine vuote e ogni passo che compi loro scritturano note, dove il sole è un'ipotesi e tu puoi solo pensarlo, ma ti basta perché ti riempi di